Tradizione romana all'alba del mille. I nostri maggiori del secolo XI, quando l'Europa accennava appena ad uscire da una età di ferro, furono degni di ritrovare nella conciliazione del sangue antico e del nuovo la vigoria italica ed il senso romano. La romanità, per vero, non era venuta mai meno. Ultimo splendore dell'occaso italico, il diritto sembra ritardare, resistendo in faccia ai goti, l'oscurità barbarica. Sembra interromperla, balenando nella legislazione dei Longobardi. In Roma aveva durato la scuola imperiale di arti e di giurisprudenza. Nell'Italia greca la scuola ravennate serbava i libri di Giustiniano e raccettava la cultura giuridica d'Oriente. Nell'Italia longobarda la scuola regia di Pavia dal jus romano muoveva a ordinare il germanico. E quando la romanità, come dittatura civile sulle nazioni cristiane, fu consacrata dalla Chiesa con la ristorazione dell'impero nella gente conquistatrice, la legge romana parve risorgere nella venerazione dei popoli come a tutti generale. Nei primi anni di quel secolo, che al finire vide composta la scuola di Bologna, il terzo Ottone imperatore, consegnando al giudice suo in Roma il codice di Giustiniano, diceva: «Giudica secondo questo Roma, la Leonina ed il mondo». Giosuè Carducci.